Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata del Cinema alla Radio, i film scelti da Hollywood Party. Io sono Enrico Magrelli e questa sera vi accompagnerò nell'ascolto di un film già storico, perché sono passati più di 20 anni, diretto da Carlo Verdone, Maledetto il giorno che t'ho incontrato. È un film molto importante nella filmografia di Verdone, perché segna nella storia della sua evoluzione, nella storia dell'evoluzione della sua scrittura, del suo modo di concepire, immaginare, fare commedie, un passo importante, perché c'è un incontro con una sceneggiatrice, Francesca Marciano. Questa prima esperienza poi si ripeterà negli anni successivi. Carlo Verdone ha lavorato ed è stato molto fedele a dei team di scrittura, scegliendo di volta in volta il team più coerente con il progetto che aveva in testa, con il film che voleva realizzare. Ha lavorato a lungo, sin dagli inizi, con due grandi saggi della commedia italiana come Leo Benvenuti e Piero De Bernardi, e poi è arrivata la Marciano, poi sono tornati Benvenuti e De Bernardi, poi Michele Plastino. Molto attento, come per tutto il resto, nel ragionare sulla possibilità di avere dialoghi, definizione dei personaggi che seguissero in qualche modo i cambiamenti, come sempre poi ha fatto Carlo Verdone, i cambiamenti della società. La sua commedia, storicamente, è una commedia non chiusa in se stessa, non chiusa in una stanza, in questo caso addirittura sposta dalla sua città di riferimento, Roma, sposta l'azione principale, diventa Milano, c'è un'escursione in Cornovaglia, e questo rapporto tra il qui di Roma e l'altrove, che può essere la Cornovaglia, può essere l'Ungheria di Io e mia sorella, film fatto prima, può essere il Belgio di Sono pazzo di Iris Blonde e tante altre località, è un rapporto centrifugo e centripeto che ha una sua dinamica, una sua storia, ha una sua logica. Cominciamo subito con l'ascolto del film. I protagonisti sono Carlo Verdone, affiancato da un'eccellente, eccezionale Margherita Bui, la fotografia come sempre di Danilo Desideri, che accompagna Verdone sin dagli inizi, la musica è di Fabio Liberatori, e nell'universo verdoniano arrivano non a caso anche due presenze teatrali importanti, quello di Elisabetta Pozzi, che interpreta il ruolo di Adriana, e quello di Giancarlo Dettori, uno dei, così, degli snodi della storia del teatro italiano, che ha il ruolo di Attilio, e lo fa con grande, sembra, di almeno vedendo il film, con grande divertimento. Entriamo subito nel film e troviamo Carlo Verdone a letto che sta sognando. Bernardo, tua madre ti deve dire una cosa. Possibile che ogni volta che veniamo qui ti fai trovare in questo stato? Non riesci neanche ad aprire gli occhi. Comunque, lo sai che su da noi abbiamo incontrato quell'americano di cui ti stai occupando? Gira sempre con la chitarra. Secondo me si droga ancora. Ha lo sguardo completamente assente. Tua madre pensa che stai esagerando con i tranquillanti e che farai la sua stessa fine. Se penso che ti mancavano solo 2 esami alla laurea in legge, che coglionata! Scusa. Comunque, la prossima volta non farti trovare così. Non esagerare con quelle pasticche. Almeno riusciremo a vederci, a parlarci. Fatti uomo, fatti maturo, tira fuori i coglioni, tira fuori le palle, ma quando ci vuole, ci vuole. Oh, maledetta, lo sapevo io. Dio mio, quanto è tardi. Dio mio, suoni sempre quando non devi suonare. Bernardo, renditi conto, hai quasi 40 anni. Non sono proprio il tuo genere questi vestiti, ti involgariscono. Tu che hai una tendenza alle taglie forti, dovresti scegliere un genere classico. Prendi esempio da tuo cugino Umberto, un fumo di Londra, un principe di Galles. Anche uno spezzato sportivo, ma elegante. E la cravatta mettitela, dammi retta la cravatta, Bernardo. Ha ragione tuo padre, è sempre un piccolo segno di distinzione che non guasta. E levati quel codino, fai ridere i polli. I titoli di testa del film, ammetto che il film è sulla possibilità di scrivere una biografia scandalosa, rivelatrice di Jimi Hendrix, sono dalle musiche di Jimi Hendrix. Non lo scopriamo Il maledetto giorno che ti ho incontrato, che è il film che vi stiamo proponendo questa sera, un film del 1992. Le colonne sonore, al di là di chi firma, di Fabio Liberatori che firma questa colonna sonora, sono colonne sonore molto meditate, molto consapevoli. Carlo Verdone è un grande esperto di musica, ha una grande passione per la musica e per la medicina, e in questo film mette insieme le due, per i farmaci più che per la medicina, mette insieme queste due piacevoli ossessioni. È un collezionista di vinile, e questo poi anche in film più recenti dà la possibilità di dare un colore ad alcuni suoi personaggi, e nella scelta delle canzoni non va mai a caso, non è mai una scelta da playlist, ma è una scelta sempre narrativa. In questo caso Bernardo è il nome del personaggio di Carlo Verdone, dovendo scrivere un libro su Jimi Hendrix, naturalmente Jimi Hendrix è un punto di riferimento sonoro imprescindibile. Nella scena che stiamo per ascoltare troviamo Bernardo in uno studio televisivo intervistato da Richard Benson, vero critico musicale, e a proposito proprio del suo nuovo progetto. Carissimi amici di Jukebox all'idrogeno, è qui con voi Richard Benson per un'altra gloriosa puntata. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di grandi chitarristi del presente come Yngwie Malmsteen, Tony McAlpine, Paul Gilbert, Joe Satriani o Steve Vai. In questa puntata invece parliamo di un grande mito del passato, e parliamo di Jimi Hendrix con Bernardo Arbusti. Ciao Bernardo. Ciao. Bernardo, dovete sapere che è un musicologo, è un critico rock e ha scritto tantissime biografie su rockstar del passato. Vorrei ricordare alcune biografie indimenticabili come quella di Marvin Gaye, come quella su Brian Jones e una incredibile, stupenda su Felix Pappalardi. Parliamo un attimino, Bernardo, della biografia su Jimi Hendrix. Ma guarda Richard, io soprattutto ho cercato di analizzare il rapporto Hendrix-chitarra-chitarra-Hendrix. Questa chitarra stuprata, questa chitarra violentata, questa chitarra posseduta. Questa chitarra sodomizzata. Questa chitarra sodomizzata, sì. Sì, anche, certo, no? Sì, dal video che abbiamo visto, certo. La chitarra quindi viene praticamente prima deflorata e poi distrutta. Io credo che tutto il mondo sa che Hendrix non ha mai conosciuto la mamma, quindi io direi che in ogni concerto rivive proprio questo conflitto, madre Hendrix, Hendrix madre. E infatti Jung sicuramente avrebbe scritto... Sì? Bernardo, abbiamo poco tempo, già mi fanno cenni vari. Ah, peccato, perché mi ero preparato tutto un discorso sull'analisi tra Hendrix e la chitarra, vabbè. Dici qualcosa, rivelaci qualche scoop sensazionale, qualche cosa in anteprima per Jukebox all'idrogeno. Non vorrei dire molto sul libro, però posso dire sicuramente che l'ultimo capitolo non deluderà sicuramente i miei lettori. Alludi a quelle voci di un suo presunto omicidio. Richard, ti prego, ancora 2 mesi e sarà tutto nero su bianco. Nero su bianco, Bernardo Arbusti, io vorrei ringraziarlo per la sua partecipazione nel programma Jukebox all'idrogeno. Ciao Bernardo Arbusti, ricordatevi Jukebox all'idrogeno. Sì, ok. Tanto accomodati un attimino. Sì, grazie. Così sistemo il finale della trasmissione. E nella puntata prossima parleremo del grandissimo virtuoso Yngwie Malmsteen. A questo punto non mi resta che dire sigla! Ehi, ma cosa hai preso? Io? Niente, perché? C'hai la pupilla dilatata. C'ho la pupilla dilatata? Eh? Ma perché, se vedeva in trasmissione? No, in trasmissione no, ma la vedo io adesso. No, non ho preso niente comunque, che devo prendere? Che si è preso lui, mica io. Finita l'intervista, ritroviamo Bernardo Verdone in Corso Sempione, dove sono storicamente gli studi della RAI di Milano, e a questo punto nel film, come accadeva in alcune commedie classiche di Billy Wilder, c'è una voce fuori campo che è quella del protagonista. L'avrei dovuto capire subito che quella giornata era iniziata storta. Ma in quel periodo era affetto da un inguaribile ottimismo. Il bilancio dei 5 anni vissuti a Milano era più che soddisfacente. Avevo una bella casa, un lavoro che mi appassionava e soprattutto un grande amore, Adriana. Quella sera sarebbe tornata da Damasco, dove era andata a fare un servizio sulla crisi medio orientale. E io avevo deciso di farle un discorsetto sul nostro futuro, del genere: è ora di fare un salto di qualità al nostro rapporto, che in poche parole significava che volevo sposarla. Oh, yeah. blues. And I sat down low on a doorstep. And she said, come in now, Jimmy. Lo ammetto, sono una vigliacca. In questo momento forse dovrei essere lì davanti a te e parlarti di persona, ma non ce l'ho fatta. Bernardo, tra noi è finita. Diciamoci la verità. Noi due da mesi siamo alle corte. Anche il nostro rapporto sessuale, ammettiamolo, dai. Ormai è solo una minestra riscaldata. Ma non ti accorgi di quanto siamo sempre più diversi? Tu sei diventato così sedentario, hai paura di tutto. Non lo so, ma credo che questo nuovo lavoro mi abbia fatto vedere le cose da un'angolazione diversa. E poi ti devo dire una cosa che forse ti ferirà, ma te la dico, insomma. Io più passa il tempo, più che la tua donna, mi sento tua madre. Non so, forse ho bisogno di un uomo più maturo, più risolto, che si occupi più di me. Insomma, Bernardo, io credo di averlo incontrato, quest'uomo. È un mio collega, francese. Ci siamo incontrati ad Aran. Un uomo con il quale credo di condividere molto, professionalmente, anche sul piano... Vabbè, capito, no? Ecco. Insomma, io non so se è lui l'uomo della mia vita, però a questo punto è giusto che io vada fino in fondo. Io ti prego, Bernardo, ti prego, dammi il tempo di capire. Io ti chiedo soltanto questo, e so che ti sto chiedendo molto. Bernie, ti voglio bene. La scoperta, la consapevolezza che Adriana lo ha abbandonato mette in moto subito uno degli elementi narrativi molto divertenti del film che stiamo ascoltando, l'ipocondria del personaggio. Si misura la pressione, qualcuno avrebbe scritto una lettera, qualcuno avrebbe cominciato forse a piangere, qualcuno avrebbe meditato un possibile suicidio. Bernardo molto più concretamente si misura la pressione per capire se i valori si sono alzati in modo pericoloso, si sono molto abbassati. Finita questa operazione da paramedico, va ad incontrare il suo editore, Loris, e in questa scena troviamo anche Stefania Casini. Oh, scusate, ma trovare un taxi... Lo so, trovare un taxi è stata un'impresa. Io d'altro canto non me la sento a guidare sti giorni, mi sento troppo male. Che cazzo hai preso? Ah, sto sfogo. Niente, ho preso questo Deploxan, che è un nuovo antidepressivo e mi deve aver fatto un effetto crociato col diazenil, che è un ansiolitico. Comunque, domani con una fiala di Benteland dovrebbe andare via. Senti, veniamo a noi. Sì. Io ci ho ripensato a questa storia di Hendrix. Beh? Il libro così com'è non funziona. Loris, ma sta venendo una bomba, credimi. Malle, al di là delle cazzate che racconti in televisione, perché detto tra noi... Tu lo scoop non ce l'hai e probabilmente non esiste. Loris, ma è una trovata pubblicitaria, è chiaro, no? Poi quanto scommetti che lo scoop lo trovo? Quanto scommetti, eh? Può anche darsi. Il punto è un altro. Oggi di Hendrix non gliene frega niente a nessuno. Loris, io mi meraviglio che tu dica queste cose, perché Hendrix è una pietra miliare della storia del rock. Ma che dici? Oh, questa fissazione con sti belli dannati, drogatissimi, tutti morti in albergucci londinesi e parigini alla Baudelaire. Passati di moda, dai. C'è un unico modo, cofanetto con videocassetta allegata. Cioè? La prossima settimana tu mi parti per Londra con una videocamera e mi spari 10-15 interviste a rockstar dell'epoca che lo hanno conosciuto. A questo punto le voglio pazze, strafatte, colorate, completamente fuori di testa, che mi dicano delle cose cazzute, che mi diano un motivo valido per spendere 35.000 lire e comprare il tuo libro. Torno subito. Beh, l'idea è buona. Solo che c'è un piccolo problema. Quale problema? Che non sono in grado in questo momento di prendere l'aereo. È un grosso problema. Da quando sono andata via Adriana mi sono tornate tutte le distonie neurovegetative di questo mondo. Sto malissimo. Non ce la faccio attraversare Corso Sempione, figure della Manica. Ascoltami bene, tesoro. La vita continua. Mi segui? Guardati, sei ridotto un cesso. Ma parla piano, dai. Ma sì, sei gonfio, polso, sfatto. Ma tu dimmi, quale donna vorrebbe uscire con un uomo così, eh? Poi si usa sempre di tormentarti. Malattie, disturbi, medicine. Guarda che così porti anche un po' sfiga, sai. Dai, zitta, dai. E ti fai far sentire da tutti. Ma cosa credi? Di essere l'unico sulla faccia della terra e essere stato mollato? Presuntuosissimo. Ma non ti accorgi che non ti invita più nessuno? Guarda, l'altra sera io volevo fare una cena. Beh, alla parola, Bernardo, defezione totale. A me mi dispiace dirti queste cose, sai. Ma insomma, se non te le dice un'amica, chi è che te le deve dire? Però guarda che pure te sei un bel tipo, sei, eh. Per voi non esiste un sentimento, non esiste un travaglio, non esiste un dolore. Uno sta male, porta sfiga. Ma io voglio vedere il giorno che tu te prenderai queste, perché arriverà per tutti il momento di queste, e arriverà pure per te. Voglio vedere se non mi chiami alle 3 di notte. Bernardo, sta una merda. Voglio vedere se non succede questo. Voglio vedere se non arriva anche per te il momento di questo. È statistica. Finito lo show? Sì, scusa. Posso consigliarti una cosa? Analisi. Abbiamo ascoltato il suggerimento di Stefania Casini, del personaggio interpretato da Stefania Casini, quella di ricorrere all'analisi, questa forse è una via d'uscita per Bernardo. Tra l'altro Carlo Verdone per alcuni anni è stato in analisi e sicuramente questo lo ha aiutato non solo a definire alcuni dettagli e a rendere in chiave satirica alcuni aspetti dell'analisi, ma poi anni dopo con Che colpa abbiamo noi torna, Che colpa abbiamo noi forse ve lo ricorderete, dei pazienti che fanno terapia di gruppo si trovano a un certo punto senza più l'analista, che muore e li lascia orfani della cura dell'analisi. Ma a questo punto di Maledetto il giorno che t'ho incontrato è il momento di fare conoscenza con l'altra protagonista del film, Camilla, Margherita Bui, che tenta di fare l'attrice con poca fortuna. Cosa do da mangiare ai miei bambini per cominciare bene la giornata? Ma un alimento sano e ideale, senza conservanti e senza coloranti. Per tenerci tutti in forma e in armonia, la marmellata di zia Sofia. Porco cane, la marmellata di nonna Sofia! Stop! Camilla, proviamo a rifarla. Ma si può sapere che c'hai? Ti vedo tesa. Rilassati, dai. Non lo so, i provini che mi agitano. Poi oggi per me è una giornata catastrofica. Senti, non è che potremmo fare un'altra volta? Ma scherzi, io voglio te per questo spot e anche il cliente. Dai, scommetti che ce la facciamo, che viene bene. Su, forza, dai. Pronti? Motore? Partito. Provino Landolfi, 26esima. Azione! Per tenerci tutti in forma e in armonia, la marmellata... Ah! Scusate. Stop! Provino Landolfi, 31esima. Azione! Cosa do da mangiare ai miei bambini per cominciare bene la giornata? Ma un alimento sano e... Oh, te perché mi guardi così? Non ho capito. Perché mi hai rotto le palle, ecco perché. Va, va, va. Cioè, ma questo mi mette in soggezione. Ma la dici di smettermi? Top. Rovino Landolfi, 45esima. Azione. Cosa do da mangiare ai miei bambini per cominciare bene la... E basta, ti odio! Top. 5 minuti di pausa, grazie. Bernardo decide di fare l'analisi nella scena che stiamo per ascoltare, il suo primo incontro con il professor Altieri, e vediamo come va questo primo passaggio nell'universo di Freud. Quando sono iniziati questi stati ansiosi, queste fobie? Ma guardi, io sono sempre stato tendenzialmente un soggetto iperteso, ipersensibile. Poi tutto chiaramente è peggiorato con la morte di mia madre 4 anni fa. Poi l'incontro con Adriana era stato un incontro molto positivo perché lei era diventata un punto di riferimento per me. Certo, adesso che non c'è più mi sento molto solo, molto abbandonato. Mi sento quasi un orfano. Il termine orfano lo usa chi ha perso una madre. No, professore, però, scusi, non cominci anche lei, cioè, a fare il parallelismo tra situazioni sentimentali e figure materne. Cioè, io mi rifiuto di vedere mia madre nella figura di Adriana. Mia madre poi era una persona estremamente depressa. 6 giorni su 7 stava al cimitero a portare i fiori alla sorella, parlava sempre di questa sorella. Poi si vestiva in maniera tremenda, con dei vestiti neri, tetri, con dei cappelli che sembrava un puffo, non... Si sieda. Eh? Si sieda. Ah, sì, scusi. Andiamo avanti. Sì. Poi quello che mi ha fatto molto male quando Adriana, parlando dei nostri rapporti sessuali, l'ha definita minestra riscaldata. Mi ha fatto venire dei grossi problemi perché mi è venuto in mente che questa donna forse dal punto di vista sessuale non abbia mai goduto, non abbia mai provato piacere. Tant'è vero che adesso mi sono messo in testa di essere impotente. Ha avuto altri rapporti? No, e con chi? No. No, ho soltanto fatto dei sondaggi molto personali, cioè a livello privatissimo, insomma, ha capito in che... modo, no? Cioè, comunque il risultato è stato estremamente scarso. Cioè, il risultato è stato zero, perché è rimasto proprio esanime, morto. E quindi... Oh, scusi, ma che fa? Lo scrive? No, non lo scrive. Queste sono cose molto riservate, molto personali che le dico. Non vorrei che... Non credo che lei abbia molta dimestichezza con le sedute analitiche. Le preciso che questa non è un'intervista. Ah, sì. Non si sieda. Eh? La seduta è finita per oggi. Va bene, sì. Va bene. Ci vediamo martedì alle 5. Martedì alle 5. Professore, mi scusi, volevo chiedere una cortesia. Dica. Io sono un personaggio pubblico. Sono ultimamente apparso anche in televisione, non so se mi ha visto. No. Vabbè. Un favore, quegli appunti che lei ha preso e metterà in una cartellina. In quella cartellina non ci scriva il mio cognome. Ci metta una sigla, preferisco. Non so, tipo Luxor. Non si preoccupi. Forse è meglio. Di nuovo. Di nuovo. A presto. Arrivederci. C'è un primo punto di incontro indiretto fra i due protagonisti, perché se per Bernardo è la prima seduta di analisi, per Camilla, che ha lo stesso analista, il professor Altieri, è l'ultima seduta, o dovrebbe essere l'ultima seduta, dopo 5 anni di terapia. E non credo assolutamente di farcela, non mi sento pronta. Tutti i pazienti dicono così all'ultima seduta di un'analisi lunga come la sua. È semplicemente l'ansia del distacco. In 5 anni di terapia, io credo che lei abbia risolto il 70% dei suoi problemi. Certo, dovrà sforzarsi di accettare certe insicurezze. No, ma scusi, quali insicurezze? Qui si tratta di panico, panico allo stato puro. Lei non può mettermi alla porta in questo stato. Altri 6 mesi, eh? Ma che cosa le costa? Non renda le cose più difficili di quello che sono. Va bene. Allora mettiamola così. È te che non voglio perdere. Io non resisto all'idea di non vederti più. Sei diventato troppo importante per me. Tanto lo sai benissimo che mi sono innamorata di te. Camilla, la prego, per favore. Ma neanche tu vuoi perdermi. Io l'ho capito da tante piccole cose. E poi dai, smettila di darmi del lei, no? Allora, posso chiamarti? Non lo so, ci devo pensare. Chiamami tu, promettimi che lo farai. Non prometto niente, sono situazioni molto delicate, troppo delicate. Adesso è meglio che vai. A questo punto del film che stiamo ascoltando, Maledetto il giorno che t'ho incontrato, diretto da Carlo Verdone, un film del 1992, ritroviamo il protagonista Bernardo in casa. Adriana lo aveva lasciato con un audiocassetta, uno strumento di un secolo fa apparentemente, ma oggettivamente adesso che siamo tutti più o meno digitali, lui ricorre a un video nel quale romanza identità, possibilità, successo, ruolo. Naturalmente cerca di riconquistare in ogni modo Adriana. Tempo fa tu mi hai spedito la tua voce. Io ti rispondo invece con la mia faccia, perché a me le persone piace guardarle nel viso, Adriana. Immagino quanto deve essere stato duro per te dire certe cose. Però sappi che non mi hai ferito. Mi hai soltanto preceduto. Adri, anch'io ho una relazione con una donna, da 6 mesi. È una ragazza molto sensibile, molto tormentata, per la quale io sto diventando giorno dopo giorno un punto di riferimento. È molto bella, sai, al punto che la sua bellezza è quasi diventata un problema per lei. Ma sai, è molto giovane. Quanto avrà? Ci avrà un... 8, 10, no, c'ha 12 anni meno di te, sì, 12 anni meno di te. Vabbè, comunque questo non vuol dire niente, non è che... Però con questa ragazza c'è molto feeling, poi ci divertiamo molto, hai capito, no, in che senso? Cos'altro dirti, Adriana? Sii felice, goditi la vita, carpe diem, eh? Ok, tutto qua. A presto e buona fortuna. Ti voglio bene. Ciao, Adri. Adri, cazzo, torno, sto male, sto... Non ce la faccio a stare senza di te. Mi manchi, lascia questo stronzo, lascia. Sto stronzo in tuta mi medica. Torna da me, amore. Nella scena che stiamo per ascoltare c'è il primo incontro diretto fra Bernardo e Camilla. Bernardo è lì per la sua seduta e viene fermato nell'androne del palazzo da Camilla. Il professor Altieri cominciava a piacermi, forse per via di quella sua aria rassicurante e aristocratica. Fatto sta che in capo a un mese non potevo più fare a meno di lui. Quel giorno poi la seduta si preannunciava molto dura, perché Adriana, in un laconico messaggio in segreteria, aveva annunciato che sarebbe passata a prendere le sue cose quella sera. Io, tanto per cambiare, ero completamente strafatto di tranquillanti. Senti, scusa, sì. Stai andando dal Altieri, vero? No, io vado dal commercialista al terzo piano per l'IVA, quindi... Guarda che non c'è niente da vergognarsi se uno va dall'analista, eh? Parla piano. Senti, me lo faresti un grandissimo favore, eh? Tipo? Questa. Che? Lui a fine seduta apre sempre la finestra per cambiare l'aria, no? Tu allora dovresti mettergliela però senza farti vedere, tra nevrosi ossessive e il soggetto schizzoide. Sai quei due grossi volumi che lui tiene sempre sulla scrivania, accanto al portapipe, eh? Ma scusa, ma per chi mi hai preso? Per un po' l'espressa? Ma c'è la cassetta delle lettere? Mettergliela nella cassetta delle lettere, non ho capito. Già fatto, eh? Non arrivano a destinazione. E quella segretaria, Lord Arpia, filtra, capisci? Senti, io già sono pieno di cavoli in testa fino a qua e non mi va ad aggiungerci una cosa che secondo me non è scorretta. È scorrettissima, d'accordo? Sì, lo so, però che ne so, di tutti i pazienti tu mi sei sembrato quello... Cioè, mi davi più fiducia, capisci? Gli altri mi sembrano tutti dei mostri. Oddio, guarda quello. Che? Lo vedi questo mostro? Beh? Si chiama Pedrazzini. Che fa? Deviazioni sessuali a livello di cronaca nera. Tipo? Bambine. Bambine? Vecchie. Ma va? Insieme. Insieme. Vabbè, me lo fai questo favore o no? Oddio mio. Senti, il favore me lo fai te a me, no? Di tenermi fuori dai cavoli personali tra te e il mio analista, ok? Nostro, se permetti. Vabbè, tante grazie, eh. Peccato, mi ero illusa che tu mi potessi capire, visto che anche tu hai dei problemi, ma... Evidentemente non hai mai sofferto per amore, perché sennò questa me la portavi su coi razzi. Vabbè, vabbè, dai, fermati, fermati, dai. Dammi sta lettera, va. Dove la devo mettere? Soggetto schizzoide e nevrosi ossessive. Mi raccomando, non ti far vedere. Sì, pure. Ci vediamo tra. Tra 50 quanto? Minuti? Qui all'angolo con il chiosco, hai capito? Sì. Oh. In bocca al lupo, eh? Ok. Ti crepa? Ma che. Crepa. Ma che mi fai dire? Dai. Dai. Ok. La seduta di Bernardo è finita e naturalmente Camilla, molto ansiosa, troppo ansiosa, lo sta aspettando. Allora, che hai fatto? Gliel'hai messa? Mica t'ha visto, no? L'hai fatto fare una figura da cazzo. Perché? Perché oggi la finestra non la voleva aprire, capito? Mi sono dovuta inventare una crisi di respiro, che mi mancava l'ossigeno, le cose, quindi dopo 3.000 madonne l'ho aperta, incazzato. Ah. E alla fine sono riuscito a mettergliela in quel libro, sì. Là, il soggetto ansioso, là. Ma no, soggetto schizzoide! Soggetto schizzoide, non urlare, ho capito. Quello con la copertina, con la sedia davanti alla spiaggia. Quello lì, bravissimo, quello là. Bravo. Comunque, sappi una cosa, che mi hai messo una tale agitazione addosso che nell'infilargli sta maledetta lettera mi è cascata il portapipe. No! È cascato. Non urlare, dai. Scusami. Per piacere te lo chiedo. Mi è cascata il portapipe con il risultato che una si è scheggiata e l'altra purtroppo si è disintegrata. Ma quale? Quella di Radica? No, quella nera mi pare. Ma no, quella di Radica dovevi romperli, quella le ha regalata la moglie. Senti, non me ne frega niente, a me dei problemi tra te, Altieri, la moglie, la pipa di Radica, gli ricomperò sta pipa, va bene? D'accordo? Sei contenta? Ecco, tenetemi fuori da questa tresca. Com'era vestito? Ma non lo so, mi viene l'ernia, non lo so com'era vestito. Dai, che ne so. Concentrati adesso, i capelli. I capelli com'erano? Ma uguali, normali. Tagliati? Forse dietro, ma proprio poco. Dietro? Mm. E come stava? Bene. Senti, a me del look del professor Altieri non me ne può fregare di meno. No, scusami. No, senti. Devo andare via, dai. È tardissimo, dai. Ti prego, un'ultima... Che vuoi? Scusami. Ma che fai, oh? Ma perché mi metti le mani addosso? Ma te ne voglio andare? Ma manco te conosco. No, scusami, non mi fraintendere. È che la giacca è completamente impregnata. Impregnata? De che? Dell'aroma del suo tabacco. Cioè? Scusa, eh. Questo deve essere Orange Spice. Strano però, perché era un po' che non usava. Scusa, che tu sappia, ultimamente è stato a Londra. Senti, scusa un attimo, eh. No, ma va, tiè, te la regalo sta giacca. Con una cortesia di non rompermi più, perché io tra 30 minuti devo andare al supermercato, mi chiude tutto, devo fare la spesa, non posso dedicarti nemmeno un secondo del mio tempo. Poi, considerazione molto personale. Tu non sei d'analisi, eh? No. No, sei da ricovero, ma di quelli immediati. Ti posso spiegare una cosa? Altieri, lo sai perché non mi chiama? Sì, dimmi. Che è un uomo dilaniato, è un uomo che adesso deve prendere una decisione, capisci? Una decisione tra me, che sono il futuro, la passione, l'avventura, e quella facciata arida, sepolcrale, e, insomma, anche tutto borghese di sua moglie, con la quale, scusa, tra parentesi, secondo me non scopa neanche più. No, guarda, io ti imploro, io ti prego, io ti supplico, va bene? Non farlo tanto per lui quanto per me, che ogni volta gli verso 80 sacchi a seduta. Non mi smerdare l'unica figura certa della mia vita, che è lui, va bene? Ecco, siccome lui è un punto di riferimento, non me lo smerdare, cambia argomento. Cambia argomento? Ecco, cambia. Letizia. Ma Letizia chi? Sua moglie, beh, gioca a whist e a golf, ecco, ti dico soltanto questo per inquadrarti il genere di persona che è. Io le ho parlato, sai? Tu sei molto malata, sai che sei molto malata? Ma era stato semplicissimo. Perché non ti fai ricordare? Mi ha telefonato dicendogli che era una giornalista di Marie Claire. Senti che ho fatto, senti. Era una giornalista di Marie Claire, dovevo fare un'inchiesta, sai, sulla crisi del ventesimo anno, quelle cretinate lì. Insomma, naturalmente gli ho giurato l'anonimato, no? La cretina ha vuotato il sacco. Senti, per favore, non dire più un vocabolo riguardante Altieri, va bene? Non voglio più sentire un vocabolo. Basta, ok? Una cosa sola. Sì. Una cosa tanto per farti il quadro generale di come stanno messi quei due. Sì. Cioè, lo sai come ha definito il suo rapporto sessuale? Come minestra riscaldata. Ecco, solo questo. Oddio. Oddio, mi gira la testa. Che è successo? Mi gira la testa. No, c'è un attimo di... Oddio, prendi aria, respira! No, scusate, no. Un bicchiere d'acqua. Mi prendo una sedia, per favore. No. Un medico. Nessun medico, grazie, molto gentile. No, adesso avvio. Respira. Sono distonia neuroegetativa, grazie, potete andare, lasciatemi un attimo solo, non vi preoccupate, grazie. Nel taschino interno della mia giacca c'è una boccetta di ansiolitico. Me ne metti 15 gocce sotto la lingua, grazie, potete andare. Non è niente. Ansiolitico? Sì. Quante gocce? 15 sotto la lingua, questo in 5 minuti è già in circolo. Ma si chiama Serenil? Mai sentito? È nuovo? Questo fu l'impatto con Camilla. Devastante come un maremoto, martellante come un concerto degli U2 in un asilo nido. In quei 20 minuti di tempesta logorroica avevo intuito solo una cosa, che era una grande consumatrice di cucina cinese, di antidepressivi e di ansiolitici. Dopo aver conosciuto un po' meglio Margherita Bui e avendo scoperto i due personaggi, i due protagonisti, scoprono dei punti di contatto legati soprattutto ai farmaci, ma non solo ai farmaci. Bernardo torna a casa e vediamo per la prima volta Adriana, interpretata da Elisabetta Pozzi, che è in casa per prendere le sue cose e lasciare definitivamente l'appartamento. Berni? Dove hai messo le mie pinne? Ma perché ti porti via pure quelle? Beh, certo, no? E poi penso che la tua amica avrà bisogno di spazio per le sue pinne, o no? Ah, eccole qua. Hop. Ma allora è proprio definitivo, eh? E di più di così. Abbiamo tutti e due una storia con un'altra persona. Ma dove te ne vai, in vacanza? Io e Jacques abbiamo pensato di approfittare di questo incontro con Mubarak per fare un po' di scuba sul Mar Rosso. Un po' di? Scuba. Dio mio, sono già le 8, domani mattina alle 9 l'aereo. Adri, senti. Perché non ti fermi un attimo a mangiare una cosa, eh? Senti, è molto tardi. Devo andare. Grazie comunque. Ma dai, un quarto d'ora che ti costa? Poi domani parti, non ti vedo più. Dai. Che t'avrò chiesto mai? C'ho già la cosa pronta, si tratta solo di scaldarla. Ti prego, Adri. Vabbè. Va bene. Accendi il forno, Grazie. Prego. Chiama gli avanzi. Li hai fatti lei? Che sei matta, l'ho fatti io. No, lei mi ha dato giusto qualche dritta per il pollo all'ananas, perché... No, siccome ha vissuto molto in Indocina, è figlia di diplomatici, allora mi ha aiutato un po' a... Sì. Adri. Dimmi. Ma te ogni tanto non ti viene un po' la nostalgia di noi due? Ma sai che sei un bel tipo, tu. Tra l'altro, il primo tra noi due ad avere una relazione sei stato tu. C'è tanto di videocassetta. Falsa. È un falso? La videocassetta è falsa, sì. Se proprio lo vuoi sapere, è stato un penoso tentativo di ripicca nei tuoi confronti. Ci ho messo 2 giorni per registrarla perché sbagliavo sempre. È la verità, Adriana. Tu mi vuoi dire che la ragazza non esiste? Ma quale ragazza, Adriana? Sto solo, sono rimasto da solo in una casa vuota con un analista, perché sto pure in analisi. Tanta solitudine, hai capito? Tanta. Senti, vuoi che cambio? Se vuoi io cambio, mi vuoi più risoluto, mi vuoi più forte, mi vuoi più cinico. Dimmi come mi vuoi. Io mi adeguo, dai, non veramente. Non è questo il problema. Basta che non te ne vai, però, perché non ci so stare senza di te. Mi fa soltanto del male se fai così, davvero. Non fare i ragazzini in questa maniera, su. Ma non è il fa... Ma che aspetti, qualcuno? Io. Chi è sto? Dai, vado ad aprire, per piacere, no, tardissimo. Perché io non aspetto nessuno. Su. Sì, scusa. Chi è? scusami, scusami tanto, veramente. No, ma non avevo il tuo numero, non sapevo come fare. Perdonami, non è che ti disturbo. No, Emma, insomma, vabbè, che ti serve? Guarda, praticamente sono un passo dall'autoambulanza. Toccami la fronte, toccami. Com'è? Gelada. Gelada? Gelada, sì. Senti, un Serenil, ti scongiuro, un Serenil. Perché in farmacia senza accetta non me lo danno, sento malissimo. C'ho gente. Ho capito, chiamo, ma adesso te lo porto. Stai ferma, Scusa, Chi è? Niente, un mio amico che cerca una cosa, che... Hai preso il Serenil? Sì, ma non è per me, è per questo mio amico che... Bravo, vedo che fai proseliti. Allora, 15 gocce e per 5 ore niente alcolici, va bene? Ok, grazie. Dov'hai? Dov'hai? Dov'hai? C'entri, va. Ma devo prenderlo. Io vado a casa tua. No, ti prego, fammelo prendere, qua non c'è la traccia. Vai in bagno, esci dallo spazzolino giallo, c'è un bicchiere di carta bianco. Sì. Mettici 3 secondi. Ok. Sì. Grazie mille. Va bene, va bene. Vai, sbrigati. Oh, com'è andato il pollo all'ananas? Squisito. Ma quanto sei bugiardo, guarda. Ma guarda, che io questa nemmeno la conosco. Lo vuoi capire? Dove vi siete incontrati? In farmacia? Adria, guarda che sei completamente fuori strada. Adesso come va via ti spiego il meccanismo. È un meccanismo... Ma cosa vuoi spiegare? Un po' di dignità, su, no, no, per dai, favore. No, no, Adria, no, no, ti prego. Dai, io adesso esigo che tu rimanga Leonardo. Qui un attimo perché ti voglio spiegare... Scusa, ma si è incastrata la chiave, non riesco a uscire. Non si ricordava che la serratura è rotta? Non è che non se lo ricordava, non lo sapeva. Non c'è mai venuta dentro casa. È la verità. No, calma, adesso tu guarda, fai uscire piano piano la chiave e dai un colpetto alla maniglia. Ma no, guarda, mi manca l'aria. Mi manca l'aria. Ti prego, mi sento svenire. Sfondala questa porta. Prova a girare la chiave. In che senso? Non capisco. In senso antiorario, porca di una troia. Non riesco. Che vuol dire? Ma come che vuol dire? Come l'orologio al contrario significa, no? Senti, che faccio? Prendo altre 15 gocce, Bernie? No. È pericoloso, no? Siamo già in nomignoli, vedo. No, ma quali nomignoli? Scherza. Senti, io soffro di claustrofobia. Non te l'ho mai detto, ma ho una claustrofobia tremenda. Come faccio adesso, Adri, quel trapano elettrico che ci ha regalato zio Corrado, dove lo teniamo? Ascoltami, sono le 11:20. No, dai, Adri. Tra 8 ore un check-in. No, non te ne andare. Un secondo. Il finale della trapanazione l'affido totalmente alle tue mani. Ma che ci vuole da aprire questa porta, cazzo? Non urlare, adesso vengo. No, Adri, ti prego, dai. Ci metto un secondo, adesso gli do una spallata, la butto giù. Bella nervosetta l'indocinese, eh? Baci con i piedi di piombo, Bernie, mi raccomando. Ma che hai capito, Adri? Sei un maniaco egoista! Aiuta! Non c'è più! Io adesso ti tiro una bomba al napalm, ma va bene, voglio vedere senza questa porta. Bernardo riesce alla fine faticosamente a far uscire Camilla dal bagno. Camilla è la prima esplosione della nevrosi incontrollabile di Camilla e tutti e due delusi in amore quasi contemporaneamente. Altieri, il professor Altieri non vuole saperne della sua paziente. Adriana non vuole più saperne di Bernardo, anche perché la contraddizione fra quello che veniva detto nel video e quello che accade, naturalmente le commedie e non solo le commedie, anche la vita vivono sugli equivoci, e ritroviamo Camilla e Bernardo che passeggiano per Milano e teorizzano, mettono insieme i loro frammenti d'amore. No, sicurezza, dammi retta, la tomba dell'amore. La passione, la vera passione. Si fonda sull'instabilità, sul senso del pericolo, sulla trasgressione. Lo sai perché tu sarai sempre perdente in amore? Perché? Ma perché tu sei troppo rassicurante, troppo prevedibile, troppo gattone. Dici? Certo. Ma scusa, è un antagonista in tuta mimetica, al fronte. Che oltre ad essere un uomo d'azione è anche un intellettuale. È un intellettuale, adesso perché c'è la tuta mimetica al fronte è un intellettuale. È un giornalista francese, va bene? E temo anche grosso scopatore. Ma che ne sai? Ma che t'ha detto? Ma dai, Bernardo, svegliati, su. Beh, tu che cosa contrapponi? Che alternativa sei te? Una massaia cantonese? Intanto però la cena di sta massaia cantonese come te la sei fatta fuori in 5 minuti? Manco un pitone. Vabbè, allora dimmi te, consigliami te, costaria da Sibilla Cumana, da scienziata della psiche. Allora, dimmi te quello che devo fare. Ma che è una canna? Allora? No, non mi piace, no, scusa. Vuoi un po'? No, perché io sono per l'autocontrollo, non mi piace questa trasmissione. Senti, sono cavoli miei, va bene? Mi rilassa. Ma pieda il Serenil, c'è il Serenil. Ma se ne ho già prese 15 gocce di Serenil, dai. Oh, come sei moralista, Bernardo, su. Allora, ascoltami. Ascoltami bene, è un principio elementare. Va bene. In amore c'è chi insegue e c'è chi fugge. Ma tu smettila di fare il cacciatore. Fai la lepre. La lepre? Certo. Eclissati, sparisci, scompari. E comincia a pensare un po' a te. Devi volerti più bene, Bernardo. Cioè? Cioè, ritrova il tuo equilibrio, la tua dignità, il tuo lavoro. Quando lei tornerà? Perché lei tornerà. Sai chi si deve trovare davanti? Chi? Un uomo con due palle così. Ma perché? Do l'idea di uno con poche palle io? Beh, sì. Adesso bisogna che mi butto a capofitta a scrivere questo libro su Hendrix, anche perché può venire veramente una grande bomba, eh? Hendrix? Sì. Ma lo psichiatra tedesco. Bravo! Ma no, Jimi Hendrix, chitarrista di colore, quello coi capelli a raggiera, drogatissimo. No. Quello di Foxy Lady. Foxy Lady? Foxy Lady! Vabbè, ho capito, calmati, non lo fare più. Vabbè, allora che è? Scrivilo, no? Ma devo andare a Londra. E allora? L'aereo. Hai paura? Da morire. Lo dici a me, sono 10 anni che non lo prendo. Giura? Giuro. Grande, grande feeling, siamo uguali. Sì. Quello lì è il mio portone. Ah, vedi qua? Sì. Carino. Oh, lo sai che questo posto per me, cioè, è importantissimo. Qua? Io ci sono affezionatissima e qui ci ho fatto il mio primo spettacolo nell'85. Antigone. Eri Antigone? Ma che Antigone, facevo il coro. Ah. Stavo 3 ore così, con una fiaccola in mano, per 3 ore, tutto il pubblico sotto. Due palle. Beh, lo sai la cosa più traumatizzante qual è stata? Il pubblico? Ma no, cioè una pipì nervosa terrificante. Ma va? Con la fiaccola in mano c'avevo paura che a un certo punto, sai... Comunque, la prossima volta che ti capita, sto fatto dalla pipì nervosa, Pollaril. Una pasticca e mezza o 16 gocce. Una mano santa anestetizza tutta la vescica. A me una volta mi è successo. Oddio, ma è tardissimo. Che... No, dicevo che è tardi. È mezzanotte e mezza, io domani devo andare alle prove, scusami. Io c'ho ancora da sparecchiare tutta quanta la tavola. Senti, io comunque ti ringrazio tantissimo per questa sera. No, sei stata veramente carina. No, anche perché ti è uscito fuori un risvolto quasi di saggezza e di buonsenso. Che ti dico la verità, non mi aspettavo. Comunque, mi ha aiutato molto, grazie. Ok. Ok, ciao. Ciao, senti. Che me lo faresti un piccolo favore? Come no, di. No, scusami, Me lo faresti questo numero? Dovresti chiedere di Letizia. Ma Letizia chi? La moglie d'Altieri? Sì, la moglie di Altieri. Vabbè, ma è solo per vedere se sta a casa. No. No, no, no. Basta con sta tresca, no. Siccome secondo me quei due si stanno pure separando. Ma scusa, poi meno male che mi hai detto eclissa, ti scappa, fuggi. Scettare. Fai la lepre. In amore c'è chi insegue, c'è chi fugge. Ma che è una teoria valida solo per me, non ho capito. Sì, lo so, hai ragione. Però, ma adesso che è tutto questo atteggiamento tipo Gestapo? Non ho capito. Ma è uno strappetto alla regola, è che... No, è che... Ti prego, dai. No, è che non è giusto. Dai, mi fai del male così. Dammi, va. Ce l'hai il gettone? Non ce l'ho, no, chiamalo. Adesso che voce faccio? Quella mi riconosce. Fa la voce... De che? Falla un po' roca, un po' catarrale. Catarrale? Tipo infisema, eh? Però che me fai fare, eh? Vabbè, dai. Segreteria telefonica di Ludwig e Letizia Altieri. Siete pregati... C'è la segreteria telefonica, con la voce di lei. Oddio, questa stronza, però! Zitta! Dammi qua, va. Ma che fai? Ma che sei scema? Ciao, buonanotte! Sei matta? Oh! Ti chiamo io! A questo punto usciamo dal film e diamo voce ai due attori, ai due interpreti, in un'intervista incrociata che rivela e ci aiuta a capire quello che non vediamo o che non ascoltiamo del film. Un po' c'è e un po' ce fa. Bisogna avere molta pazienza, però gli voglio molto bene. E poi è molto comica, è ironica, molto ironica come persona. È imprevedibile e poi mi fa ridere, è divertente. Certe volte è un po' faticosa, vorrei strangolarla, dico la verità. Non lo so, lui dice che io devo fare me stessa, ma io non è che sono così terribile nella vita. Cioè, ho un po' paura di certe cose, come l'aeroplano, e poi abbiamo la macchina, abbiamo la barca, pastorizia, bovini. Però non è che così, no, non è così terribile. Per esempio, io non prendo medicine. Di solito non mi va di prendere. Lui insiste. Ogni piccolo malore così ha sempre la medicina giusta. Però io no, medicine non le prendo. Diciamo che ho delle fobie che appunto riguardano un po' gli spostamenti. Pubblicità. Rientriamo nel nostro film, Maledetto il giorno che t'ho incontrato, il film diretto da Carlo Verdone, diretto e interpretato da Carlo Verdone e Margherita Bui. I due protagonisti, Camilla e Bernardo, decidono di fare una micro santa alleanza contro le fobie che rendono la loro vita quasi impossibile. E combattere contro le fobie significa anche andare al cinema, significa rischiare per vedere dei film horror, naturalmente, rischiare qualcosa. Appurato che io e Camilla eravamo due casi clinici, pensammo di unire le forze per superare le nostre fobie. Stabilimmo un programma di allenamento che consisteva nel fare scientificamente tutte le cose che ci facevano più paura. È andata, ok? Si può vedere, sì. Io, dai, scusate, non lo sapevo io, dai. No, dai, porto via, se andiamo. E basta voi! La nostra era una tabella inflessibile. Eravamo decisi a venirne fuori una buona volta per riuscire a comportarci come persone normali. 4 minuti e 58, 4 minuti e 59, 5 minuti! Dai! Dai, che gliel'hai fatta! Dillo, gliel'hai fatta! Io ti ringrazio! Non ce la faccio, no, dai. No, fammi scendere, dai. Ti prego, non mi va, dai. Lo so che non ti va, però lo devi fare perché è una cosa terapeutica. Leva questa mano, Bernard, devi guardare. Ma no. Guarda me come sono tranquilla. È troppo dura questa. Ma sono paura io. No. E fu così, a forza di sperimentare e condividere quei momenti di panico, che io e Camilla diventammo veramente due grandi amici e confidenti. Dilla, oh, ma che ti ha preso? Scusi, mi può dare una mano per piacere? Ma che è successo? Se sentita male sopra. Zitto, sto giù! Oh! No! Faccia a terra, faccia sul pavimento, figlia di puttana! Billa, ma secondo te qual è l'aspetto più importante per una donna dal punto di vista sessuale? La potenza, la durata, la perversione? Qual è? No, te lo chiedo perché... Cioè, io penso che sul perverso sono sempre stato un po' scarso, capito? Non ci ho mai avuto un grande inventivo. No, dove invece sono un grande, secondo me, sulla durata. Là veramente non mi serve proprio di niente. Mi ricordo una volta, no? Ad Acilia, in campagna, dai miei genitori, no? Stavo con una certa Ines. Lo sai quante volte in 4 ore? Prova a dire. Roba da Guinness dei primati, prova a dire. 5. Tremendo, guarda. Sai com'è andata a finire? Con lei che gridava, basta, basta, basta. Anzi, abbasta, abbasta. Che era un po' bora, capito? Quanti anni hai, Bernardo? Io? E che c'ho quasi 40 anni, perché? Beh, ci sarà un motivo per cui io preferisco gli uomini sopra i 50 anni, no? In che senso? Nel senso che gli uomini come te, che poi sono il 99,9%, beh, pensano soltanto alle misure. Insomma, ce l'ho corto, ce l'ho lungo, duro tanto, duro poco. Il vostro, scusami, ma il sesso visto dai geometri. I baci, Bernardo! Bisogna saper baciare! Ma io so baciare! Sì. Guarda che gliela mollo! Vabbè, meglio così. No, perché parte tutto da lì, è importantissimo. Semmai mi direi che è un problema di stile, ecco. Labbro a ventosa. Conosco. Labbro leggero. Lingua serpente. Idem. Lingua a pennello. Com'è sta lingua a pennello? Ma non lo so, è un movimento ondulatorio, a largo raggio... Morbido, delicato, profondo. La passata di palato con la lingua. Quello è. Cioè, scavi con la lingua dentro, vai. Mamma mia, quanto sei poco poetico. Sì, vabbè, ma il senso è quello, no? Che poi il bacio classico è anche detto bacio alla francese. E se tanto mi dà tanto, il francese, quello in tuta mimetica, parte con 10 lunghezze di vantaggio, Bernardo, capito? Mentre la terapia contro le fobie di Camilla Bernardo... A dei progressi non indifferenti, all'improvviso arriva una telefonata di Altieri che vuole incontrare Camilla. Camilla ha bisogno dell'appartamento e naturalmente ricorre al nuovo amico Bernardo per farselo prestare. Oh, finalmente vestita come Cristo, come... Oddio. Che c'hai? Ti scongiuro un serenil. Ma perché? Che c'hai? Niente, non mi reggono le gambe. Pasticco in gocce? No, in gocce. In gocce? No, per carità, in gocce. No, ma piano. Oddio. Ma che è? Adesso tu mi devi spiegare Per quale cavolo di motivo ti serve casa mia? Ma c'hai casa tua, ma vattene a casa tua, no? Non ho capito. Cerca di capire. Sto ridipingendo casa. Bene, tutta sottosopra. Poi questa è l'occasione che sto aspettando da mesi, Guarda che a te ti sfugge un particolare basilare, che è fondamentale, che questo, oltre a essere il tuo presunto amante, se dal caso che sia anche il mio analista. Tu vuoi che questo è tanto cretino che viene dentro sta casa e non si rende conto che è casa mia? Vabbè, è proprio un cretino. Mi sono messo nelle mani di un cretino. Pago un cretino. E damo, su. Ma poi che figura ci facciamo? Tu una mantide, io un ruffianaccio, cioè un duo diabolico da cronaca. Namo, su, dai, per favore. Ma Bernie, ma come sei catastrofico? Che ci vuole? Io in 2 minuti ti faccio sparire tutti i particolari. Ma catastrofico di che? Ci vuole un tir qua per portare via la roba. Ma che te chiedi, cavattela in 4 e 48? Come ti chiedi, in 10 minuti piano. Elimino ogni tua no, traccia. No, piano, dai, piano, piano. Sono più di mezz'ora, gli ho detto di venire alle 11. Piano James Brown, piano. Certo, perché tu non hai, fra l'altro, minimamente considerato l'ipotesi che io te potessi dire di no. Perché a te è tutto te dovuto, è sempre sì per te, ma vero? Ma dovresti dirmi di no? Non ho capito. Dai, sei il mio migliore amico. Lo sai benissimo, se me l'avessi chiesto te non l'avrei fatto una, ma 100 volte. Vabbè, allora in tutto questo dov'è che vado a dormire? Sotto un ponte in albergo? Dove vado? A casa mia, dai. Casa tua. Ho già sistemato tutto, ti ho messo un asciugamano pulito in bagno e ti ho cambiato le lenzuola. Queste sono le chiavi, la chiave argentata del portone grande. Questa qui è della porta di casa, va bene? Ma la chitarra di Andy, quello è un cimelio, costa $25,000. Esatto, ma mi fai prendere un colpo. Ma non si prende così sta chitarra, dai. Ma no, come la metti? Piano, piano. La metto piano, così, piano. Poi la metto sotto al letto. Non ti preoccupare, dai, per favore. Su, dai. Ma che, cacci via, ma cacci? Ma perché? Non ti preoccupare. Fondamentale. Cioè? Dove tieni il cacciavite? Il cacciavite sta nel cassettino sotto il lavabo della cucina. Perfetto. Vabbè, che ti serve? Devo togliere la targhetta della porta, no? Chiedevi pure quella. Eh beh, certo, no? Dai, su, vai. Vabbè. Vai, fammi questo. D'accordo. Oh, grazie di tutto, veramente sei stato un grande amico. Ciao. Sì. Lambilla. Senti, ma te il maialino in agrodolce non lo mangi? No, perché? Allora, ma lo potresti dare, perlomeno metto qualcosa sullo stomaco. Sì, hai ragione, è un'ottima idea, sì. Nella scena che stiamo per ascoltare, Carlo Verdone, che ha prestato, Bernardo, che ha prestato la casa a Margherita Bui, Camilla, si trova un po' nella situazione di Jack Lemmon nell'appartamento di Billy Wilder. Non può stare in casa sua perché ci sono il professor Altieri e Camilla, il professor Altieri, lo psicanalista di tutti e due, lo ricordo per chi si fosse messo in collegamento con noi in ascolto in questo momento. Vaga per la città di Milano, la musica che sentiamo è un'altra delle canzoni interpretate da Jimi Hendrix. E alla fine trova riparo su un divano in casa di Camilla, una casa che è in ristrutturazione. Pronto? Bernardo, rispondi. Sto malissimo. Svegliati. Pronto? Oh, Billa, che è successo? Come una tragedia. Billa, non fare sciocchezze, Non t'azzardare ad avvicinarti al mobiletto delle medicine, Ma hai capito? Vengo adesso. Ciao. Notte d'inferno. Beh, lui aveva uno sguardo rilassato. Si era anche vestito bene. E niente, io dentro di me ho pensato, qui è fatta. Poi lui mi guarda fisso. Mi dice, è la sua ultima lettera che mi ha spinto a venire qui. Beh, niente, cioè a me, mi ha preso un colpo. Cioè, dico, qui qua è mandata a 3.000. Perché dentro di me ho pensato, è mio. Niente, poi... Poi vuoi sapere cosa mi ha detto? Parole testuali. Oh! Parole testuali, le vuoi sapere? Parole testuali, ti sto a sentire. Ecco, mi fa. Lei. Ah, perché il verme ha ripreso a darmi del lei, capito? Lei è la rappresentazione vivente del mio primo fallimento professionale. 5 anni di terapia buttati al vento. Cioè praticamente io sarei una povera pazza, capito? Una povera pazza incurabile, senza speranza, che Cioè, ma ti rendi conto? Oh, ma mi stai sentendo? Ma che stai dormendo? Ma mi stai sentendo? Ma mica dormirai? No, non dormo. Ah, ecco. T'ho sentito. Allora, senti, Senti la lettera che gli ho scritto, vorrei un tuo giudizio. Allora, no, 2 righe. Caro Ludwig, sappi che la tua vigliaccheria supera di gran lunga la tua intelligenza. Ecco, volevo sapere se come primo concetto ti piaceva questo qui. Ma tu dormi! No, le mani addosso, no, porca miseria! So anche le 4 di mattina! Ma per chi mi ha preso per ostaggio? E poi no, ti ha autorizzato a toccare i miei fogli, questi sono i fogli del libro di Hendrix! No, era soltanto per chiederti un giudizio sulla parte introduttiva. Senti, sai che c'è di nuovo? Che a me delle tue lettere non me ne frega, una merita ceppa, va bene? Sai che sono le ceppe? Come no? Ah, ma poi che sistema è? Ti do casa mia per venire a scopare con il mio analista. Sì, dai, perché l'intenzione era quella, dai, e che... Poi vieni qua per appropriarti delle mie cose. Sai che c'è di nuovo? Che mai fatto, due palle così, mai fatto. Ecco che c'è di nuovo. Quindi sarei una puttana? Ma tu ti rendi conto della gravità delle cose che stai dicendo? Le ribadisco. Chiedi scusa. Tu sei la persona più invadente, egocentrica, infarcita di telenovelas di quarta che io abbia mai conosciuto in vita mia. Ma che ingrato che sei. Cioè, quando si tratta della tua domina in carriera con la tuta mimetica, non la nominare, tutto bene, eh? Non la nominare. Poi quando si tratta di me perché ho bisogno di aiuto, un bel calcio nel sedere. Bell'amico che sei, guarda. Fuori di qui. Guarda, mi fai schifo, mi fai. Ricambio in piano. Comunque, sta casa, guardatela bene, questa è l'ultima volta che la vedi, va bene? Sì, io me ne fotografatela. Vado. Me ne vado, però ti voglio lasciare un piccolo ricordino, che eh? Fai? Che fai? No! No, la chiave di Alice, no! Ma tu sei sassa! Merda! Tu sei... Vieni qua, sei la persona più egoista che abbia mai conosciuto! Mi fai schifo, sei via, mi piazza, sei come tutti gli altri uomini! Anzi, sei peggio perché tu ti mascheri da buono, hai capito? Io adesso, prima ti colpo, e poi ti frullo dalle scale, capito? Io ti giro che chiami 113 e ti faccio mandare a San Vittore, hai capito, stronza? Anzi, la neuro, e guai a te se rimetti piede a casa mia! Dio mio! Io la uccido! Io la uccido, questa pazza isterica. I tuoi stracci. E maledetto il giorno che t'ho incontrato. La distruzione della chitarra di Jimi Hendrix è un punto di rottura irreparabile. Nella vita reale, Carlo Verdone ha cercato di acquistare la chitarra di Jimi Hendrix, ma è stato battuto sul tempo. Passano dei mesi, ritroviamo Bernardo a Londra ed è la prima grande trasferta. Era già stato in Ungheria nel film Io e mia sorella, aveva già fatto dei grandi spostamenti. Si trova a Londra e la voce fuori campo di Bernardo ci aiuta a capire che cosa sta facendo, a che punto è nelle ricerche e nel trovare i documenti per scrivere la sua nuova biografia. È molto interessante, come diciamo all'inizio dell'ascolto di questo cinema alla radio, questa dialettica possibile o impossibile tra Roma e l'altrove. Se vi ricordate, proprio nelle primissime immagini dell'opera di debutto come regista di Carlo Verdone, uno dei tre protagonisti di Un sacco bello, a un certo punto, dopo aver fatto una lunga vestizione, ballando, agitandosi, è un momento, se avete voglia provate a rivederlo perché è un momento veramente molto divertente, ha una mappa dell'Europa e traccia il percorso della vacanza che non riuscirà mai a fare, quindi fa un cerchietto intorno a Roma, poi lancia una freccia, ipotizza una sosta in Austria per poi arrivare nell'est europeo. Quindi già dalle prime immagini questa voglia di allontanarsi, sapendo che poi muoversi in un altro contesto significa poi trovare anche le possibilità per raccontarlo nel modo migliore. E Carlo Verdone, a distanza di anni, ripensando a Maledetto il giorno che t'ho incontrato, dice forse alcuni momenti di Londra, alcuni momenti della Cornovaglia, dove poi si sposterà l'azione, avrei potuto sfruttarli anche meglio da un punto di vista cinematografico. In ogni caso, questa allontanarsi da Roma, questa trasferta, che è un trasferimento simbolico, se volete, ma anche metaforico, dall'universo, dagli appartamenti romani, significa anche immaginare degli sketch, dei gag, delle battute diverse. In questo caso non c'è il cortocircuito linguistico, anche perché Bernardo parla un inglese accettabile. Passarono circa 3 mesi senza che io e Camilla ci vedessimo più. Io nel frattempo mi ero buttato a capofitto nel lavoro e, coadiuvato dai consigli di Altieri e da qualche ansiolitico, ero finalmente riuscito ad attraversare la Manica. Carico più che mai, ero deciso a trovare una svolta sensazionale per il mio libro. Cominciai subito le mie interviste alla ricerca di uno scoop. La prima fu Norma Davis, la proprietaria di una lavanderia, vecchia amica di Hendrix. Signora, dica la verità. Ha mai trovato niente di compromettente nelle sue tasche? Mi riferisco a polveri strane, bustine... erbe. Look, man, over 20 years have gone by. I've got to go. It's closing time. Last no, question. No, closing time. No, because I want... No, closing. Closing time. It's closing time. Not the final no, question. No, closing time. Che cazzo, closing time. They used to call me the... Poi fu la volta di Lawrence Madison, detto Barbie, il parrucchiere personale di Hendrix. Mi attaccò un micidiale bottone di mezz'ora sulle dimensioni del sesso di Jimmy, simile, secondo lui, a due numeri del Time arrotolati. Mi svelò poi, in gran segreto, che Foxy Lady era stata scritta in un momento di incontenibile eccitazione per una sua manicure. Il Samarkand Hotel era l'albergo dove Hendrix morì la notte del 18 settembre 1970. La versione ufficiale era stata decesso per mix mortale di droga e barbiturici. Ma io ero convinto che nell'ambiente discografico la morte di Jimmy avrebbe fatto comodo a più di una persona. Per saperne di più avevo un asso nella manica. Si chiamava Catfish, un newyorkese con dei precedenti che negli ultimi anni era diventato molto amico e confidente di Hendrix. Dai registi del Samarkand risultò che questo Catfish aveva dormito lì i giorni precedenti la sua morte. E allora partì subito in caccia. E dopo una raffica di telefonate a consolati e uffici del lavoro, riuscì a scovare il mio uomo. Faceva il becchino in un piccolo cimitero della Cornovaglia. Mentre a Londra, Bernardo scopre che in un teatro londinese va in scena uno spettacolo e una delle attrici è proprio Camilla. Sono passati dei mesi, il rancore si è un po' affievolito, va allo spettacolo, la va a trovare in camerino e poi è a cena con Giancarlo Dettori, Attilio e Camilla. Qui anche io sono un operaio, conducente di autobus. Il venerdì sera esce di casa e si va a vedere il suo Pitt, il suo Shakespeare, il suo Chekhov. Per gente come noi di cultura, questa è la civiltà, capito? È il paradiso, ecco. Non le pare? Sì, no, come no, certo. Ma certo, ha ragione. Per esempio in Italia nessuno sa se l'anatra all'arancia l'ha scritta per esempio Strindberg o Ibsen, no? Certo, che poi di? Non lo so. Di Strindberg. Ibsen. Ibsen, no, lo sapevo. Qui sì che c'è fame di cultura, viva Dio. Ma quando gli inglesi vengono da noi per respirare, non so, il barocco, il rinascimento, che cosa si trovano di fronte? Una ciurma di cafoni, con Rolex, il cellulare, tutti in fila per Porterco. Camilla mi diceva che lei sta scrivendo un libro. Sì. Su quale argomento? Niente, una biografia su Hendrix. Oh, Hendrix, il grande, famoso pittore fiammingo. No, Hendrix è il chitarrista eroinomane, quello di Foxy Lady, Voodoo Child. Vabbè, un chitarrista, niente. Perché io ho una formazione, diciamo, molto più classica, insomma, Tchaikovsky, Barto. No, vabbè, un altro mondo. Vado subito a chiedere il conto, eh. Scusatemi, no, la prego, la prego. No, vorrei, siccome sono io un ospite, vorrei... Ma perché? Vabbè. È molto gentile, grazie. Sì, Mari. Oh. Sì? Dirà pure cose giuste, però con una che da cavolo s'accente. Ma che c'entrava di Strindberg, Ibsen? Che te la... Però secondo me adesso non andate a pagare il conto, ci andate a mettere i voti. Dici? Sì, a te due, a me quattro. Ma no, sembra così, però poi in fondo è una persona molto intelligente, sensibile. Sì, però parla, intanto il Rolex c'ha pure lui, spiattellato proprio in primo piano. Ma gliel'hai visto? Ma sempre così ha parlato. Villa, domani ti va di stare insieme? Perché io devo andare in Cornovaglia, a Lands End, a fare un'intervista per il mio libro. E ho pensato ad andarci in motocicletta. Sì. È un posto un po' lontano, però non lo so se... Non so se ti va. Domani sì. Ma perché va? No, sì. Veramente? Dai che parliamo un po', ci raccontiamo un po' di cose. Va bene, dai. Okay. Sì, tanto domani ho anche il giorno di riposo, quindi è perfetto. Senti, ti scrivo qua il nome del mio albergo, però cerca di venire entro le 10, non più tardi, capito? Sì. Ok. Allora, io sto al Samarkand Hotel. Sì. Di Stanley Garden. Va bene, dai. Non più tardi delle 10, però, se no non arriviamo in tempo. Ok. Ok. Senti, non dire niente ad Attilio, massima discrezione. Tu non dire niente, poi ci penso io a inventargli una scusa all'ultimo momento, eh. Una scusa perché? Perché state insieme? Sì, stiamo insieme. Dopo la scena qualcosa si ricompone fra Camilla e Bernardo, decidono di andare in Cornovaglia, di raggiungere il punto estremo della Gran Bretagna, Land's End, e ci arrivano in sidecar e lungo il viaggio riprendono a parlare, ritrovano una qualche forma di confidenza. Ma non mi dici niente del libro, viene bene? Sto in un mare di guai, Villa! Se oggi questo non mi fa delle dichiarazioni come dico io, rischio di chiudere bottega. E perché? Ma come perché? Qualcosa c'ho, ma c'ho poco. Non è che sono notizie importanti o curiosità. E pensate che al mio editore gli avevo promesso lo scoop del secolo. Qua rischio un fallimento totale, rischio. No, ma dai, su che dici? Speriamo. Ma? Sono in mano a questo Catfish. Tu adesso mi prenderai in giro. Lo sai perché ci tengo tanto a questo libro su Hendrix? Per Adriana. Perché le voglio dimostrare che sono un giornalista bravo, affidabile. Un professionista. Quanto quella faccia da stronzetto di quel francese, capito? È un fattore d'orgoglio maschile, lo so. Tu invece, D'Altieri, ci pensi ancora? Ma stai scherzando? No. Ma no, io sto molto meglio, cioè sono un'altra persona e questo è tutto merito di Attilio. Penso di trasferirmi a Roma con lui, cioè l'anno prossimo. Vai via da Milano? Mm-hmm. Oh no, mi dispiace. Oh. Lo sai che non prendo più neanche un tranquillante? Ma va? Giura? Giuro. Niente? Zero. Beata te. Perché tu? Io? Beh? Io che prendo? Ma te lo giuro, niente. Una valeriana giusto proprio quando ho voglia di dormire un po' più la mattina. Una passiflora, un tiglio, ma... Zero pure io. Roba d'erboristeria, non è che... Beh, con tutte quelle pasticche eravamo arrivati alla frutta, dai. Ma che scherzi, un altro po' la facciamo noi la fine di Hendrix. Camilla e Bernardo sono arrivati a destinazione. Li troviamo in un cimitero perché devono trovare l'uomo che potrebbe fare delle rivelazioni sconvolgenti sulla fine di Jimi Hendrix, sulla morte di Jimi Hendrix. E quest'uomo misterioso è Catfish. Lavora qua, che deve fare? Beh, certo. O a Sam o al becchino? Dai, tiriamo fuori la telecamera e prepariamoci, vai. Aspetta. What the hell are you doing here, man? Ma il mio uomo non tardò a rivelarsi. 46 di piedi, con un peso superiore al quintale e una faccia da ergastolo, Catfish apparve alle nostre spalle con aria trucida e sinistra. Yeah. Now beat it. Yeah, look now. It's off, è spenta. Have you a few minutes for me? Dopo aver spacciato Camilla come mia segretaria personale, cercai subito di conquistarmi la sua fiducia spiegandogli che ero un giornalista serio ed appassionato e che avevo scritto tante, tante biografie su altre rock star scomparse. I'm journalist, I'm rock historian. Fagli vedere i libri. Giusto, my books. This book about Elvis I wrote. Ma a Catfish questo non interessava. Quello che voleva in cambio sulla sconvolgente verità della morte di Hendrix me lo disse subito, sparato in faccia. 5,000 pounds cash off the cuff, and I'll tell you how it went. 5,000 sterline? Ma sei matto? Se ti prende in giro? Perché mi devi prendere in giro? Questo c'ha bisogno di soldi, allo spacciatore. Sì. Now in this moment, I haven't 5,000 pounds cash here. So find it and I'll talk. I got a story worth 10 times as much. Send them all up in. How do we arrange it? My place. Where? Noon tomorrow. Yes. Cherry Lane 7. Cherry Lane 7. You bring the green, I give you the scoop. I selling it cheap, cause I don't want to make no money on Jimmy's back. He was a real buddy. Okay. See you tomorrow. See you. L'ho trovato! Sì. Sono un genio! Lo stanno a cercare da 20 anni, l'ho trovato! Sì, zitto, che siamo in l'ho cimitero! L'ho trovato! Ma come fai con i soldi? Vabbè, 2,000 ce l'ho, me ne mancano 3,000, ma i soldi almeno, ma che mi frega! Sei l'ho sicuro? Intercettato! C'ho lo scoop della mia vita, c'ho! Loris, tu bisogna che entro domani mi fai avere 3,000 sterline, è importante! Mandali via fax, via telex, via fotocopia, basta che arrivano, Loris, ti prego! Ma come troppi, dai! Billa, dammi spicci, coin. Spicci? Per telefono. Sì, aspetta. Loris, questo domani mi tira una granata sensazionale che mi smonta la storia del rock, ecco, credimi. Lo so, hai ragione, la tintoria forse giornalisticamente era poco incisiva, sono d'accordo, ma sono quelle cose che fanno colore che nel montaggio uno le mette come vuole. Loris, qua stiamo a livello di Watergate, di Irangate, hai capito? Ci metto la mano sul fuoco. Billa, altre monete, altri coin, altri soldi. Sì, ho capito, è una parola, ce ne sono solo due. Ma tutto il resto dei panini, era una montagna di spicci, era. Ci abbiamo preso le frittelle al miele. Vabbè, ho capito. Loris, senti, scusa, tu ti stai stupidamente impuntando, fammi parlare. Ti stai stupidamente impuntando su una cosa di secondo... Loris. Loris. Eccolo va. È caduta la linea. È caduta la linea? È caduta. Che non può cadere, stiamo in Cornovaglia, guarda da dove chiamiamo, può cadere la linea, no? Senti, dai, adesso andiamo in albergo, Lì lo chiami con calma, tranquillo, e vedrai che lo convinci. Tu dici? Lo scommetti? È così dura certe volte. E dai, su, vieni. Ok. A me comunque sai cosa mi dà fastidio? L'ignoranza della gente, perché lavorare con un ignorante è quanto di peggio te può capitare. Camilla decide di aiutare il suo amico Bernardo, va in giro per la cittadina, trova un negozio e decide di vendere un suo anello antico. Ritroviamo Camilla e Bernardo a cena. Niente, non mi manda una lira, zero. Questo miserabile pezzente, hai capito? Quindi praticamente per 3.000 pound mi salta lo scoop della mia vita, mi salta tutto il mio lavoro, hai capito? Ma era così importante questa intervista? Catfish è l'unica persona su questo pianeta in grado di avvalorare la tesi dell'omicidio. Devi sapere che c'era molta gente interessata a eliminare Hendrix per motivi discografici. Adesso dimmi te se per colpa di questo ignorante, di questo cialtrone, di questo stronzissimo cocainomane... E dai! No, lo devono sapere tutti. Questo stronzo cocainomane sfondato mi crolla tutto. Il lavoro di anni. Capisci? Ecco. Ok. Vabbè, dai. Adesso mangiamo, Che vuoi fare? E questi? Questa è matta. Dai, con quello che guadagno, non hai idea la diaria che mi danno in questo spettacolo. Proprio. Billa, io non li posso accettare. No, allora mi offendo. Te, per 4 soldi me li ridarai poi con il guadagno del libro, eh? Non sono 4 soldi. Dai. Ma l'anello? L'anello? Niente, lo sai una cosa? Mi stavo lavando le mani. Non mi va a finire nel buco del lavandino? Proprio, quindi... L'anello ti è scivolato. Lavandino. Billa, non dire cazzate. Adesso basta, eh. Era falso. Falso. E poi... Non è che ci tenessi tanto a questo anello, dai. Billa... Sei la più grande amica che ho mai avuto, veramente, ti giuro. Ma hai visto che in fondo non hai fatto un cattivo affare ad incontrarmi? No. Finita la cena, arriva la notte e Camilla non riesce a dormire e qui comincia una delle scene più famose di Maledetto il giorno che t'ho incontrato, una scena che è calibrata con grande attenzione, con un dialogo piuttosto divertente e soprattutto con dei meccanismi da cinema comico classico. Billa, che hai? Eh? Che hai? Niente. C'è qualche problema? No. Vogliamo parlarne? No, magari volevo sapere se ti era rimasta un po' di... Di che? No, quelle cose che dicevi, cos'è, quelle tisane, lì, passiflora, tiglio, che era la... Ti ho capito al volo. Ti ho capito al volo. Sì. Vuoto il sacco? Posso vuotarlo? Abbiamo barato in due. Vado, copro tutto fino al delirio schizzato. No! Dio! Un genio sei! Che fai? No, mitico, andate da 40. No, c'è un'anamnesi pazzesca questa qua. Questa è da ultimo stadio. Io sono penultimo. No, ma è dovuto alla birra, è pericolosissimo. Dai, cavolo, non si prendono le medicine così. Berni, ti prego, tienmi compagnia però, eh. Sì, non mi va. Non mi lasciare da sola. No, non prego, ne ho bisogno Berni. Adesso. Posso... Prendi qualcosa, dai. Guarda, non ne ho bisogno. Per vecchi tempi. Berni, prendi qualcosa, per favore. Ok. Allora prendo, andrò sul vecchio Serenil. Ma dai, è superatissimo. No, non è superato. Perché questo si chiama Serelin Retard, cioè cessione graduale di chetazolam nell'arco di 24 ore. Quindi per 24 ore uno è completamente coperto dall'ansia. No, con Depadol no, non puoi mischiare, sputa. No, Bila, non mi fai incazzare, sputa, è pericoloso. Ti prego, poco. Sputa la porca mia. 2, 3. Ma vuoi fare la fine di Marilyn Monroe? Pazza? Sto male. Ma che ti senti, Non lo so. Che hai? Berni, sono depressissima, non lo so. Questo faro, che come sempre questo rumore, in continuazione. Non lo so, vedo tutto nero, ecco. Senti, secondo me il problema è un altro, vero? Cioè? Quindi mi sembra di capire che sto desorges è un'altra delle tue clamorose toppate. Diciamoci le cose in faccia, Vabbè, la verità è che è una delle mie solite stronzate. Cioè, mi dà anche sicurezza lui, però non so. Però sai che io. Io mi annoio tantissimo. Sarà capito. Poi anche sessualmente. Sessualmente? È superatissimo. Che senso superatissimo? Che non. Cioè non c'ha fantasia, non si inventa niente. Ma no. Eh? È retorico, ecco. È una scopata retorica. Cioè, beh, vabbè. Io adesso ti do 200.000 lire se mi spieghi che vuol dire scopata retorica. Che, cioè nel senso che quando viene, che ne so, gli viene la voce impostata, tipo attore d'accademia, tipo... cioè così, tipo attore di radio. Com'è la scopata retorica? Non lo so, è come, ecco, come andare a letto, non so, con fratello Karamazov. Mamma mia, che palle. Ma, non so. Forse dovrei provare con uno più giovane. E infatti, infatti. Più atletico, più fantasioso. Tipo? Ma tipo... Tipo chi? Tipo te. Ma... Sul serio? Ma non lo so. Villa, ma tu, scusa, ma tu pensi veramente che io e te a livello sessuale potremmo veramente... Ma perché no? Magari così, anche a livello terapeutico, non so. Magari mi sblocco. Sì. Dai. Ma adesso di colpo, così, brum, andiamo, famo, ma... Vabbè, su, dai, comincia. Dai, inventa, su. Ok. Vai per tu con qualche bacetto. O con la lingua a pennello. Come sa? Sì. Okay. Aspetta, no, è così, bagni tutta, che fai? A me ma la lingua è umida. Ho capito, però non so. Ok, cerco di dartelo più secco, magari. Ok. Oddio! No. Forse sono venuto in un momento poco opportuno, vero? Attilio! So che è un po' difficile da spiegare, però è una cosa che va vista esclusivamente da un punto di vista terapeutico, non è che noi stiamo... Non c'è nessun problema. Vi faccio finire il tutto con molta tranquillità. Ma riprenditi questi quattro stracci, va? No, Attilio, lascia che ti spieghi, veramente la cosa è molto meno grave di quello ma che sembra. Meno, tu che sei una troia di 14 sei, ecco cosa sei. Ma no, ma tu sei poco intelligente, abbastanza imbecille, molto opportunista, ecco quello che sei. Ma no, Attilio, scusa, tu certe cose non le puoi capire. Ah no, No. Io non le posso capire, tu le puoi capire. Ma se ti dico che la cosa era scopo terapeutico, sì, credici. Terapia d'appoggio era quella lì, era terapia. Ma diglielo pure tu, ma che cosa ma fai? Ma stiamo scherzando, ma lasci stare. Ma si toccano i piedi, ma mi fai schifo, ma vergognati. Poi guarda, sei penosa con questo biografo qui di Rita Pavone, sei penosa. Con questo? Con questo biografo di Rita Pavone, chiaro? Senti, ma che si tratta così, la donna? Bernardo, lascialo stare, dai. Ma che se dicono certe cose? Io ti giuro, non ho mai menato nessuno. Ma tu proprio me ne porti a Milano. Io la denuncio, sa. Ma io le faccio passare un guaio grosso a lei, sa. Un guaio grosso? Ma di che? Gli effetti, Bernardo, i risultati, le conseguenze di questa scena sono che Attilio Dettori licenzia Camilla. La polizia arresta Bernardo proprio perché è in possesso di una quantità di medicinali che fanno pensare a qualche traffico illegale e ritroviamo Bernardo che è al commissariato sotto stretta sorveglianza e viene raggiunto da Camilla. Il commissario ha detto che entro stasera avranno i risultati di tutte le analisi, manca solo il defra del 40. Vedrai che massimo alle 8 ti fanno uscire. Billa, mi dispiace molto per quello che è successo, credimi. E fai bene. Nel giro di 24 ore hai distrutto la mia carriera, la mia vita sentimentale. Vabbè, quella sentimentale l'ha già distrutta, dai, più distrutta di così. Io ti proibisco categoricamente di trarre delle conclusioni sulla mia vita privata. Vabbè. Keep it quiet. Tu, da questo momento, torni ad essere un perfetto estraneo per me. Va bene? Il maledetto il giorno che torno con te. Che fai? Dove vai? Torno a Londra. A Londra? Prendo il primo aereo per Milano. Aereo. Prenderei anche un missile pur di andarmene via di qui. Senti, io lo so che tu mi odi, lo so che mi disprezzi, hai perfettamente ragione. Billa, io però ti prego, ti imploro, nel nome della nostra antica amicizia. Ma che cos'altro vuoi adesso? Una cosa, Catfish. A mezzogiorno oggi c'era l'appuntamento a quell'indirizzo che hai segnato, no? Non è che prima di partire magari puoi fare un salto. Guarda, ci metti mezz'ora, non di più, una mezz'ora sola. Ma sai dove me lo sbatto io il tuo Catfish, eh? Ma magari, che ne so, se il libro va bene, riesco a vendere la cassetta, faccio i soldi, ti restituisco anche i soldi dell'anello, no? Non me ne importa niente dei tuoi soldi. Avanti. Che cos'altro vuoi adesso? Che voglio? No, ma stupidaggine, guarda. Billa, ti ho preparato una serie di domande per Catfish e poi un promemoria su come usare la videocamera. Certo, perché tu già davi per scontato che avrei... Ma che figlio di puttana che sei? Billa, mi raccomando, prima di partire, ricorda di lasciarmi sta videocassetta alla reception al Samarkand. Ci metti o a nome mio o room 22. Va bene? Ok, Billa? Il mio nome è Camilla, non Billa. Camilla accetta di fare l'intervista a Catfish. C'è una scena nella quale Camilla, neo-operatrice, con una macchina da presa, con dei microfoni che usa apparentemente con una certa sicurezza, Catfish fa in video delle rivelazioni molto importanti. In base a quello che racconta Catfish, Jimi Hendrix sarebbe stato veramente assassinato, che poi è il cuore della biografia che Bernardo vorrebbe scrivere. Finita l'intervista, ritroviamo Camilla e Bernardo in albergo. Credo di avere un certo buon gusto per l'inquadratura. Cioè? Tu mi hai dato una grande opportunità. Dimmi. Cioè, io ho capito una cosa. Cioè? Ho capito che con il teatro io non c'entro niente. Cioè, io mi sento molto più a mio agio dietro la macchina da presa, capisci? Ma che vi siete detti? Che t'ha detto? Hai detto Watergate? Beh? La moltiplica per 3. C'entra ancora Nixon? FBI, servizi segreti, mafia. Mafia? Yes, ce n'è per tutti i gusti. Rivelazioni da prima pagina del Time. Dio ti ringrazio. Ma sai come si chiama questa? La svolta della tua vita. Quella della nostra vita, della nostra. Sei grande. Uno. Sì. Due. Tre. Via. Go. Those were the days. Jimmy was a great genius. Nothing to do with these hairdressers, nitwit guitarists they have nowadays. Jimmy should take a lot of risks. That is why his passing did a lot of them a great big favor. No, niente, qui gli ho riaggiustato il microfono perché siccome il filo era troppo corto. Real convenient for some real big shots. Just for one special reason. Because nobody knew that Jimmy was. Beh, ma che? Non lo so adesso, non capisco. Si sente la mazza? Si capisce niente? Beh, sarà il televisore. Non è il televisore. No? Sei te che hai fatto casino. Quando gli hai aggiustato il microfono, il jack dove l'hai messo? Il jack audio. L'hai messo nella presa A? Lo spinotto l'hai messo nella presa A? Non mi ricordo, dunque io mi sicuro gli ho stretto... Il jack l'hai messo nella presa A? Ma quale jack? Ma tu sei un incompetente, sei incapace di intendere e di volere. Anzi, dirò di più, tu sei una grandissima criminale. Da galera sei, non da galera. Così, per favore, non fare così, cazzo, mi agiti. E levati questo cappello da cretina. Sei mascherata da cretina, sei. Non l'ho fatto apposta, io non lo sapevo, questo fatto del jack, adesso... Cinque anni di lavoro? Senti, vattene, esci dalla mia stanza, anzi, esci dalla mia vita. Forza, io non ho mai conosciuto un idiota più idiota di te. Guarda che ce ne vuole, Poi mascherata da cretina che ha la bacchetta. Vattene. Allora ciao, Ciao, ciao, addio, però no addio che dopo mi chiami, addio nei secoli dei secoli. Cinque anni di lavoro, presi e buttati per una deficiente... Che più deficiente non si può, vestita pure da fata. Un altro litigio, maledetto il giorno in cui si sono incontrati, verrebbe da dire, vedendo e ascoltando il film, però il legame, e questo è abbastanza evidente, fra Bernardo e Camilla è sempre più forte. Infatti li ritroviamo in questa scena, nel corridoio dell'albergo, pronti a fare pace. Senti, scusa, che prima sono stato un po' troppo cattivo, lo so. Ma sì, hai ragione. Io sbaglio sempre tutto. La mia vita è tutto uno sbaglio. Forse per questo ti voglio bene. Ma mi vuoi bene pure se ti ho rovinato tutto? Ma forse te ne voglio anche di più. Senti, poi chi ci dice che questo qua non ci ha raccontato una marea di cazzate per 5.000 sterline? Che ne sappiamo noi? Ma dici? Ma è capace. Già la faccia del gastolano ce l'aveva. Pure una faccia da gran sola. Billa, poi senti, chi se ne frega di Londra, di Hendrix, dell'editore, non me ne frega più niente. Quanto ti è rimasto in tasca? Quanti soldi c'hai? Che vuoi che mi è rimasto? Un centinaio di sterline. Vabbè, vesti da gran sera che usciamo, ok? Come, da gran sera? Da gran sera, Io da gran sera che c'è? Solo il vestito di scena. Va benissimo. Sì? Ti metti quello e ce ne andiamo, dai. Ma dove andiamo? A Ritz, ostriche e champagne. Tanto sei via una volta sola, dai. A Ritz, dai. Ok? Ok. Bernardo. Che c'è? Oh. Oh. Ti voglio bene. Mentre si stanno preparando per il loro appuntamento e per festeggiare la ritrovata pace e armonia all'interno della coppia, del tutto in attesa arriva Adriana Elisabetta Pozzi. Adriana, ma che ci fai qua? Beh, è un mese che ti cerco, credevo di impazzire. Dimmi che mi perdoni, ti prego. Ma come hai fatto? Io lo so che ti sembrerà una pazzia. Oddio, sono così commossa, mi tremano persino le mani. Ma quando sei arrivata? Da un'ora fa neanche. Ascoltami, è che io ho commesso un errore terribile, Bernie. In questi mesi mi sono accorta di amarti più che mai. Oh, Bernie, come ho potuto? Jacques è servito soltanto a una cosa. Che? A farmi capire quanto ho bisogno di te. Vabbè, insomma, comunque in poche parole vi siete lasciati, questo mi vuoi dire? Io voglio ricominciare con te. Noi dobbiamo fare un salto di qualità, Bernardo. Sì, no, certo, sì. Sposiamoci subito, senza perdere tempo. Io voglio avere un figlio. Vuoi bere qualcosa? Un po' di whisky, una cosa? Aspetta, no. Prendo io un pochino di acqua. Amore, che hai? Niente, no. Stai bene? No, un antiacido, una stupidaggine. Ho mangiato una cosa pesante. No, mica. Ma tu mi ami ancora, vero? No, dai, dimmelo, perché io sono venuta apposta. Fatti lei! Ho sbagliato stanza al 22, perché io proprio qui. Allora, scusatemi tanto ancora. Sorry, arrivederci, scusami tanto. Scusa. Ma tu stai ancora con lei? Scusami, io questo veramente non l'avevo calcolato. Ma no, Adri, che hai capito? È una mia amica. È una mia amica, anzi, ti arriva a dire di più per il rapporto che abbiamo. È un mio amico, è una mezza matta con dei problemi. Cerco di aiutarla, così. Ma niente di... Ti prego, Bernie, non mi dire altre bugie, non lo sopporterei, ti prego. Te lo giuro, non c'è niente. È una ragazza che ha dei seri problemi. È molto malata, è malata di nervi, molto. E cerco in qualche modo di aiutarla. Tutto qua, basta. Ci sei andata a letto? Ma con chi? Ma t'ho detto di no. Non c'ho nessuna attrattiva, non è che... In fondo è carina, però. Sì, no, è carina. Adesso l'hai vista pure vestita così, quindi... Però non è che sia questa esplosione di femminilità, capito? Non è che ce l'ha. È carina, però non è che... Vabbè, comunque, no, la risposta è no, dai. Poi è troppo nevrotica, troppo tormentata. Certo, non è che io sia uno calmo, però a me, ti giuro, una così mi fa paura, Mentre Bernardo si giustifica e fa degli apprezzamenti poco piacevoli su Camilla, Camilla, che è fuori dalla porta, sente tutto, profondamente delusa, prende i propri bagagli, lascia l'albergo ed è in strada in attesa di un taxi. Ma mentre sta aspettando il taxi, dalla finestra la vede Bernardo e Bernardo decide di raggiungerlo. Billa. Senti, è successa una cosa tremenda. Oddio, ma che altro vuoi adesso? Billa, mi sa che io ti amo. È la verità. È vero, Billa, è così, credimi. Anch'io. E proprio non ce la faccio a stare senza di te, sai. Neanch'io. Veramente. When things went wrong, baby, who did you run to and find a shoulder to lay your head upon? Baby, wasn't I there? Didn't I take good care of you? A Ritz. Right. Questa è l'ultima scena di Maledetto il giorno che ti ho incontrato, il film diretto e interpretato da Carlo Verdone insieme a Margherita Bui nel 1992, ed era il film proposto dal Cinema alla Radio, il Cinema alla Radio, l'appuntamento domenicale di Hollywood Party. Parlando di questo film, Carlo Verdone ricorda e ricordava come il personaggio di Bernardo sia stato quasi interamente scritto da Carlo Verdone stesso, e quello di Margherita Bui è stato scritto poi da Francesca Marciano. E Carlo Verdone ricorda come alcuni degli elementi, dei tratti, delle debolezze e anche delle cose buffe di Bernardo sono cose che gli appartengono profondamente, come alcuni dei colori del personaggio di Camilla appartengono realmente a Margherita Buy. Sicuramente l'ipocondria, la passione, la mania delle medicine era qualcosa in quel momento molto forte nella vita di Carlo Verdone, che diceva all'epoca era ancora molto ipocondriaco. Questo film ha funzionato un po' come una vera e propria terapia. Come sempre, come accade in molti dei film di Carlo Verdone, la sua comicità è una comicità meditata, non casuale, lavorata. Gli stessi spazi, gli appartamenti, l'appartamento di Bernardo, lo studio dell'analista, le città, i luoghi scelti non sono semplicemente dei fondali, delle cornici, ma vengono poi utilizzati narrativamente, possono essere fonte di comicità, di inciampi dei personaggi. C'è una logorrea dei personaggi che in questo caso è una logorrea motivata dalla nevrosi, motivata dalle fobie. E questo dimostra come Maledetto il giorno che t'ho incontrato, ma potremmo citare altri film di Verdone, la comicità verdoniana è una comicità, potremmo definire forse il suo stile una sorta di realismo comico, non necessariamente svincolato o sganciato dalle banalità, dalle ovvietà e anche dalle volgarità di molto cinema comico italiano. Io vi saluto e vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata: Francesca Levi, Maddalena Nisci, Miriam Mauti. Io sono Enrico Magrelli e vi auguro una buona serata.